Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi affrontiamo un tema che è certamente affascinante, anche perché riguarda moltissimi di noi, se non tutti noi, e cioè la città, una città di cui noi con i nostri comportamenti siamo attori e protagonisti giorno per giorno. Un centro ormai giudicato da tutti, quello della città, irrinunciabile come centro di socializzazione e di innovazione. E affronta il tema della città da una prospettiva decisamente insolita e affascinante Vincenzo Trioni, un critico d'arte, docente universitario, nonché curatore del padiglione italiano alla prossima Biennale di Venezia. Il suo è un libro monumentale a vederlo, si chiama Effetto Città, Arte, Cinema, Modernità, è pubblicato da Bompiani, 830 pagine, 58 euro ed è ricchissimo di illustrazioni che scandiscono il volume, illustrazioni che hanno a che fare con il cinema e con l'arte, e il libro si sviluppa in due tempi e di 8 passaggi che appunto raccolgono tutte queste immagini. Essi, i tempi e i passaggi, aiutano a comprendere come si sia evoluta la percezione e l'immagine della città attraverso le espressioni artistiche, visionarie, astratte, declinate in alcuni centri nevralgici del pianeta, soprattutto Vienna, Parigi, New York e Napoli. Insomma, ci spiega l'autore, si tratta di un viaggio nella città che va a iscriversi all'interno dell'orizzonte dei visual studies, un campo disciplinare eclettico frequentato da studiosi provenienti da saperi differenti come storia dell'arte, storia del cinema e dei media, studi culturali, sociologia, estetica, una città trattata anche sotto forme di metafore. La città come spettacolo, la città come stile, la città come montaggio, che hanno a che fare appunto con le metafore, con le analogie e con le allegorie. Ma proprio su questo adesso sentiamo l'autore. Buonasera Vincenzo Trione. Buonasera a lei. Vincenzo Trione, questo suo libro è un viaggio, una passeggiata, una flânerie, come la chiama lei, nella quale si combinano registri e codici. Ecco, al termine di questo viaggio, che cosa ha scoperto della città contemporanea e del modo di rappresentarla? Probabilmente parlare della rappresentazione della città contemporanea per l'arte significa innanzitutto interrogarsi su come si può e in che modo mettere in scena il visibile, questa enorme domanda. In fondo raccontare la città per l'arte è stata una grande ossessione che ha attraversato tutti i linguaggi visivi nel corso del Novecento. Alla fine sono arrivato alla convinzione che probabilmente il modo più efficace per rappresentare la città è quello di non farla vedere. Quindi sono arrivato quasi al paradosso che l'arte astratta, penso almeno a due casi, a Mondrian e a Fontana, al Mondrian che mette in scena New York e al Fontana che circa 30 anni dopo fa la stessa operazione sempre su New York, quelli sono i modi più interessanti per mettere in scena l'essenza della città, una sorta di immagine interiorizzata della città. Questo viaggio è condotto attraverso metafore, analogie e allegorie che corrispondono a tre città, tre modelli, Vienna, Parigi e New York. Ecco, in che senso queste tre città interpretano queste tre chiavi di lettura? Bene, ho scelto la prima, Vienna, perché probabilmente è la prima grande capitale europea che nell'Ottocento pensa a se stessa e viene concepita come una sorta di immensa opera d'arte a cielo aperto, cioè dove la città non è soltanto un contenitore di episodi eterogenei e dissonanti, ma viene concepita con una precisa volontà estetica, dunque la città come immensa opera d'arte. La seconda città è Parigi. Parigi è senz'altro la grande capitale dell'Ottocento, è la città che Walter Benjamin individuerà come luogo simbolico di tutta la modernità e che ho scelto perché in fondo è la patria dell'autore che ha un po' guidato questo mio viaggio, che è Baudelaire. Quel Baudelaire che nei confronti di Parigi aveva un atteggiamento ambivalente. Ho particolarmente amato un verso del Cigno di Baudelaire laddove egli scrive: la forma della città cambia, ahimè, più del cuore di un mortale, dove mette insieme da un lato l'idea del cambiamento, dall'altro il dolore rispetto al cambiamento. Tutto questo ha come scenario privilegiato proprio Parigi. La terza città è New York, che ritorna in più momenti del libro, e la New York che mi affascina è quella che si dà come avrebbe detto Milan Kundera, capitale di una bellezza inintenzionale, cioè l'opposto di una bellezza progettata, programmata e pianificata, in cui episodi eterogenei si ritrovano a convivere, in sé probabilmente sono insignificanti, ma dall'accostamento lasciano affiorare una bellezza particolarmente intensa. A me ha colpito in modo particolare l'incontro che Giorgio De Chirico ha avuto con New York, quando approda oltreoceano e, guardando New York, la legge come la città in cui le sue fantasie metafisiche erano realtà. Vale a dire che, come nei quadri metafisici, si incontrano episodi assolutamente eterogenei e determinano delle misteriose armonie, esattamente a New York accade la stessa cosa. Ecco, fermiamoci un momento su Parigi. Lei a un certo punto introduce il concetto di Omniapolis e scrive: se la polis rappresentava il trionfo della razionalità, Omniapolis è una regione sconfinata dove percorsi eterogenei coesistono negandosi reciprocamente. Screziata e fatta di piani sovrapposti, in essa cerchiamo di ritrovarci e immancabilmente ci perdiamo. Beh, questa sembra anche una descrizione delle banlieue di Parigi, nelle quali ribolle il fondamentalismo. Non a caso questo capitolo nel quale è contenuto questo paragrafo si intitola Estetiche dello shock. Sì, in realtà io in questa parte uso anche alcune suggestioni letterarie e baudelairiane per parlare dello scenario attuale. Uno scenario nel quale, da un lato, la città perde la sua forma, io ne acquista un'altra e diventa una sorta di immensa installazione contemporanea, ma anche la città che diventa Omniapolis o città-territorio, cioè una città che, in cui il confine con le periferie tende a svanire. Eppure spesso ci siamo illusi che le nostre città siano degli spazi liquidi. Bauman ha costruito la sua fortuna su quest'idea della liquidità. Io ritengo al contrario che le nostre città siano caratterizzate dall'affiorare sistematico di barriere che determinano dei continui stop and go nella nostra quotidianità, e che gli stessi quartieri, lo stesso rapporto fra il centro e la periferia, sia fortemente marcato da queste barriere spesso invisibili che attraversano appunto le nostre Omniapolis. Le faccio sentire adesso la citazione di un grande film. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Naturalmente l'avrete riconosciuto, era Le mani sulla città, e con questo brano ricordiamo anche il grande, grandissimo Francesco Rosi. Ecco, che cosa ha rappresentato questo film nel suo libro e anche nell'immaginazione collettiva di Napoli? Sì, ovviamente in questo sono anche abbastanza parziale da napoletano trapiantato a Milano. Ovviamente è un film che anche negli anni universitari mi ha particolarmente influenzato. Nel libro mi soffermo su una peculiarità di Napoli, perché pur non essendo una megalopoli racchiude in sé tutti i difetti delle megalopoli e alla varietà delle megalopoli, cioè la congestione, il caos e insieme il continuo cambiare dei paesaggi. In fondo Napoli da questo punto di vista è un laboratorio abbastanza straordinario per capire la varietà degli spazi urbani contemporanei. Rosi è stato bravissimo, aiutato anche dalla Capria, a mettere in scena il momento in cui la Napoli del dopoguerra veniva aggredita e violentata. Era una violenza abbastanza comune a tante altre città, non solo anche italiane, ma non solo italiane. A me però quel film è interessato soprattutto per un'altra ragione, perché lì Napoli non era soltanto il contenitore di una storia, lì Napoli diventava la città protagonista del film, cioè diventava davvero una forma simbolica che traeva verso di sé tutte le vicende. E quello che mi affascina appunto è quando la città non è soltanto scenario e teatro, ma in alcuni episodi molto significativi del cinema contemporaneo, diciamo dalle Mani sulla città fino a Caro Diario di Moretti, per arrivare alla Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, la città riveste un ruolo essa stessa da protagonista. Non è un attore tra gli attori, ma acquisisce il ruolo di protagonista assoluto. E Francesco Rosi, appunto, era stato bravissimo a dare questa centralità a Napoli. Da milanese acquisito, che cosa scriverà di Milano nella seconda edizione del suo libro? No, Milano è una città che io ovviamente ho prima frequentato in maniera episodica, adesso ci vivo, ma credo che sia tra le città più accoglienti d'Italia. E io la cosa che amo di Milano è quella che amava un po' anche Mario Sironi, cioè questo senso quasi del silenzio inatteso che in pochissime altre città d'Italia si può cogliere, quei momenti nei quali la città sembra quasi addormentarsi e diventa molto più bella. Ma insieme amo probabilmente una cosa che a livello internazionale non è ancora stata raccontata, e cioè quella che aveva già prefigurato Boccioni, e che la Milano attuale è veramente l'unica città che sale in Italia, cioè l'unica città che in maniera forse silenziosa, in linea col temperamento dei milanesi, sta dando vita, sta assistendo a una straordinaria trasformazione urbanistica. Questo probabilmente attendiamo ancora degli storici della città che lo raccontino in maniera adeguata. Grazie a Vincenzo Trione, autore di Effetto Città, Arte, Cinema, Modernità. Buona serata. Buonasera. E alla città si rifà un libro di conversazioni filosofiche scritto da uno dei più illustri filosofi, in particolare un filosofo della politica italiana, cioè Salvatore Veca, che riprende come titolo del suo libro una frase del grande napoletano Giambattista Vico, La gran città del genere umano. Questo è il titolo. 10 conversazioni filosofiche, pubblicato da Mursia, 152 pagine, 15 euro. In queste 10 conversazioni Veca affronta vari temi, tutti riconducibili all'aspetto della convivenza e quindi con incursioni nell'etica, nella solidarietà, nel patto di cittadinanza. E ci sono anche approcci insoliti come le riflessioni ispirate alla canzone di Gaber, Canzone dell'appartenenza. E poi si parla anche di architettura e di forma fisica della città, dove si sottolinea il ruolo straordinario che la città ha avuto e continua ad avere nell'evoluzione della civiltà, e queste righe lo dimostrano. Se le città sono fra i più vasti laboratori sociali dell'umanità, il fare città si connette inevitabilmente con la dimensione della temporalità e della storia. Il fare città si iscrive così fra permanenza e insorgenza, fra processi e progetti. Più precisamente, il fare città è quell'insieme di teorie, intenzioni, fini e pratiche che si situano nel campo di tensione generato dalla coppia familiare di permanenza e metamorfosi. Ben ritrovati con Salvatore Carrubo, vi propongo adesso alcuni titoli di narrativa e cominciamo con un autore italiano. Questo è un libro che ci invita a riflettere in fondo su cosa siamo, su come siamo, come ci comportiamo, come possiamo reagire agli shock che colpiscono la nostra vita, al modo in cui ci relazioniamo con gli altri. È l'ultimo titolo di uno dei più originali scrittori italiani, Paolo Nori, che si intitola Siamo buoni se siamo buoni, pubblicato da Marcus & Marcus, 220 pagine, 15 euro. Lo stile di Nori è inconfondibile, basato molto sul ritmo discorsivo quotidiano, e qui si misura col ritorno alla coscienza da un incidente di salute del protagonista Ermanno Baistrocchi, che diventa un'occasione per riflettere appunto sulla propria vita, la famiglia, l'amicizia, l'ambiente di lavoro, con la leggerezza, l'ironia e talvolta anche un tocco quasi surreale che caratterizza appunto la scrittura di Nori. Il protagonista ha lavorato come editore, come scrittore nel settore dei libri, un ambiente nel quale è sempre stato forte il rischio dell'invidia, che per Nori fin da subito si era manifestata in un modo stranissimo, perché scrive: io non ero invidioso di uno che vendeva molte copie, che andava in testa alle classifiche. Ero invidioso di uno che vendeva molte copie, andava in testa alle classifiche, se era un mio amico. Ma ecco una testimonianza dello stile unico di Nori, che apparentemente dimesso e banale, è tuttavia capace di cogliere da piccoli segni quella mutazione quasi antropologica che è avvenuta negli ultimi 20-30 anni. Io a pensarci, quando ero piccolo, mi sembrava naturale che le sciarpe fossero scozzesi e i maglioni a rombi, e che avessero le trecce, e che le gonne avessero le pieghe, e che i maschi adulti fumassero le sigarette e bevessero gli amari e andassero a vedere le partite di calcio, che la domenica si andasse a messa, che a Natale ci si facessero i regali, che l'ultimo dell'anno si bevesse lo spumante, che le scarpe si portassero a risuolare, che i pavimenti andassero lucidati, che i telefoni avessero i fili, che gli appartamenti avessero i corridoi, che le cuffie avessero il pompon, che la domenica si mangiasse il manzo, che a colazione si bevesse il caffè latte, che le poesie avessero le rime, che per dormire ci si mettesse il pigiama, che ci si vergognasse a piangere in pubblico, che per lavorare ci volesse un posto di lavoro e che i carabinieri garantissero l'ordine e proteggessero la popolazione. Dopo, quando ero diventato grande, avevo cominciato a usare delle sciarpe a tinta unita e non avevo più maglioni a rombi o con le trecce, e la maggior parte delle gonne che vedevo in giro erano senza pieghe e buona parte dei maschi adulti aveva smesso di fumare, ed erano degli anni che non vedevo più nessuno bere un amaro, e le partite di calcio per me erano quei giorni che cambiavano i tragitti degli autobus, e non mi ricordavo l'ultima volta che ero andato a messa, e a Natale continuavo a fare dei regali, ma saranno stati 10 anni che non bevevo dello spumante, e forse di più che non vedevo una lucidatrice, e forse ancora di più che non portavo a risuolare un paio di scarpe, e i miei telefoni erano tutti senza fili, e i corridoi a casa mia non ce n'erano, e le mie cuffie erano senza pompon, e a casa mia la domenica si mangiava come il lunedì, e il caffè latte non sapevo più neanche com'era pitturato, e le poesie che leggevo erano quasi tutte senza rima, e la maggior parte delle volte dormivo senza pigiama e non mi vergognavo a piangere in pubblico, e lavoravo dove capitava, e la mattina quando mi svegliavo la prima cosa che mi chiedevo è: cosa facciamo oggi? Che era il contrario di quel che dicevo a Lemma quando abitavamo insieme prima che nascesse Daguntai, che le dicevo di notte prima di addormentarci: cosa abbiamo fatto oggi? E lei mi diceva quel che aveva fatto lei, e io le dicevo quel che avevo fatto io. E la maggior parte dei giorni eravamo stati insieme tutto il giorno, e nei nostri racconti prima di addormentarci sembravano due giornate completamente diverse, ma ci piacevano molto. Ed era così bello il mondo, era così bello. L'altra prova narrativa è quella di un grande scrittore israeliano, David Grossman, che si intitola Plausi a scena vuota, pubblicato da Mondadori, 176 pagine, 18,50 euro, ed è tradotto da Alessandra Shomroni. Questo è un romanzo a due voci tra un magistrato e un cabarettista. Il secondo ha chiamato il primo, vecchio compagno di scuola, ad assistere al suo spettacolo, uno spettacolo difficile, controverso, che è l'occasione per rivivere un trauma infantile provocato dalla morte del padre. La sincerità e la durezza del suo racconto mette a dura prova la pazienza degli spettatori, ma anche dell'altro protagonista, il giudice, che capirà lentamente e tardivamente le ragioni dell'invito che si riveleranno poi sconvolgenti. L'attore riesce a tenere sulla corda gli spettatori, indecisi se essere affascinati o disturbati dalla sua performance. Una difficoltà che il giudice sottolinea, pensando come quest'uomo, che non è bello, non è eccitante, neppure affascinante, riesce a toccare il punto preciso, scrive Grossman, in cui gli individui si trasformano in massa, in marmaglia, e come riesca a trasformare il pubblico in ostaggi della sua anima. E quindi il libro è capace di restituire questo disagio dello spettacolo e l'implacabilità con cui l'attore si mette a nudo, aprendo anche squarci di amaro sarcasmo come questo offerto dal cabarettista dal nome Doval. All'improvviso spuntano questi nuovi antisemiti. Non so, non mi sento a mio agio con loro. Avrei qualche riserva. Si torce le mani e si stringe nelle spalle in un atteggiamento di ingenuo imbarazzo. Non saprei come dirlo senza offenderli, e non sarebbe nemmeno bello offenderli solo perché sono nuovi. Ma ragazzi, diciamocela tutta. C'è qualcosa di strano nel loro comportamento, no? A volte penso che se qualche scienziato israeliano, tanto per fare un esempio, dovesse trovare un farmaco per la cura dei tumori, ok? Un farmaco che debelli il cancro una volta per tutte. Vi garantisco al 1000% che nel mondo intero comincerebbero proteste, lamentele, manifestazioni. Si terrebbero sedute all'ONU e ci sarebbero articoli sui giornali di tutta Europa. Perché prendersela tanto con il cancro? E passi per prendersela, ma perché debellarlo? Perché non tentare di arrivare a un compromesso? Perché puntare subito sull'uso della forza e non provare prima a metterci noi nei panni del cancro per vedere come vive lui la malattia? E non dimentichiamo che il cancro ha anche i suoi lati positivi. Tanta gente, infatti, vi dirà che l'aver affrontato una malattia del genere l'ha resa migliore. E non bisogna dimenticare che la ricerca ha portato allo sviluppo di farmaci utili per altre malattie e adesso tutto si bloccherà. Non abbiamo imparato niente dal passato. E cosa c'è poi nell'uomo? Prosegue Dovale con aria pensierosa, che lo rende tanto superiore al cancro da dargli il diritto di debellarlo. E a questo punto... Il confettino. Ci sono ancora tre occasioni a Milano, il 22, il 23 e il 25 gennaio, per vedere il film di Phil Grobsky, Matisse, che ci presenta il grande artista attraverso una mostra che ha avuto luogo prima a Londra e che ora è in corso fino al 10 febbraio al MoMA di New York, The Cutouts, cioè i lavori degli ultimi anni di Matisse, con carte colorate ritagliate con le quali realizzò degli assoluti capolavori. E Matisse è un libro per bambini pubblicato da Franco Cosimo Panini, di Patricia Gays, costa 19,50 euro, ricco di pagine animate, di pop-up, e si conclude proprio con l'invito a realizzare i propri gouache découpé, come si chiamano tecnicamente le opere di Matisse. E segnalo ai genitori altri due film di tema artistico, uno di Mike Leigh, che è dedicato al grandissimo pittore inglese Turner, qui interpretato da Timothy Spall, che uscirà nelle sale il 29 gennaio, e l'altro di Richard Lexton, Effie Gray, su uno dei maggiori studiosi dell'arte, John Ruskin, questo che qui viene interpretato da Greg Wise, ed è dedicato il film alla sfortunata vita sentimentale dello studioso, che tra l'altro fu anche esecutore testamentario proprio di Turner. E di Ruskin, che visse in epoca vittoriana e fu un grande appassionato dell'arte italiana, oltre che poeta egli stesso, Electa pubblica due frutti delle sue peregrinazioni veneziane, contenute nella guida ai principali dipinti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, tradotto da Emma Solegno, 224 pagine, 25 euro. Dopo 140 anni, naturalmente, le valutazioni artistiche e metodologiche sono molto cambiate, molto discutibili, ma la guida resta certamente assai significativa, anche grazie alle illustrazioni dalle quali è completata, per comprendere gli occhi con i quali molti studiosi osservavano l'arte italiana, con giudizi spesso severi e incomprensibili. Per esempio, uno dei capolavori di Tintoretto, Il miracolo di San Marco, da Ruskin è sbrigativamente giudicato molto sopravvalutato. Ultimi arrivi. Vi propongo degli ultimi arrivi tutti al femminile. Innanzitutto cominciamo con una grande scrittrice italiana, Fernanda Pivano, che ha pubblicato Medaglioni con Schirà, 190 pagine, 15,50 euro. Questa è una serie di personaggi, di ritratti che la grande scrittrice aveva incontrato nel corso della sua vita, e qui troviamo personaggi dell'arte, della scienza, della letteratura e di molti altri ambiti, che sono ritratti in poche ma spesso fulminanti righe scritte lungo tutto l'arco della carriera della Pivano. Poi vi propongo un romanzo di una scrittrice italiana, Patrizia Emiltri, che si intitola La carezza leggera delle primule, è pubblicato da Spelling e Kuffer, 258 pagine, 15,90 euro, con al centro un misterioso quaderno di ricette che darà modo alla protagonista di dare una svolta decisiva alla propria vita. E infine vi segnalo E tu mi vorrai bene, l'autrice è Kathy Glass, che è una esperta inglese di affido familiare. Il sottotitolo del libro è La storia di Lucy, la mia bambina, è pubblicato da 360 con marchio Tea, 332 pagine, 14,90 euro, tradotto da Elena Cantoni. Questa è la storia vera, esemplare, a lieto fine, di una bambina sfortunata e difficile che troverà, grazie appunto all'affido presso la famiglia dell'autrice, il suo equilibrio e l'amore che le era sempre stato negato. E a questo punto ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Filippo Oreggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.